questa luna che è appesa tra le nuvole, appesa a questo filo che la rende intollerabile. E non ti puoi nascondere all'ombra di mille parole che volano nell'aria e poi ti fanno male. Avresti voglia di restartene da sola, di ritornar bambina per crescere di più. E invece tardi sai, il tempo vola, ti senti un po' sconfitta dalla vita e il resto lo sai tu. Quella notte non sapevi dove andare, con il cuore così piccolo. C'era la tua vita stesa in riva al mare, in attesa di un miracolo. Guardavi dentro il buio, dentro te, con una lacrima sul viso. Pensavi a quella tua felicità come si spense all'improvviso. Quell'attimo scappato come un ladro che svanisce nella notte, quel sogno che si è frantumato contro al muro dei futili perché. Adesso non ci devi più pensare, è tempo d'esser bella, dopo alla fine puoi ricominciare e il resto lo sai tu. Mascara e rossetto questa sera alimento per me, e mi sento un po' strana con la vecchia collana. Quando ti penso mi piace vederti così, alzati, abbraccia la vita che è già venerdì.